Cristian, così è. Buonasera Cristian Alessio, qua da questa parte. Io sono a Carbonazzi, figurati tu. Arriva, dai. Ah, voglio che arriva. Se non va, te ne va abbastanza bene, anche da. Sei quasi fuori scala qua. Adesso in questo passo, vabbè, sei di fronte a me in aria, eh. Qui come ce l'ho di fronte, a un chilometro. Sono sì, tranquillo che è più vicino, perché io lo vedo da qua, Bricome. Vedo tutto da qui, capito? Sono in via Carlo Felice, quindi figurati tu. Vicino alla GBC vogliono vedere tutto. Lì nell'era siamo un chilometro e mezzo, non di più. Si vede tutto, l'illuminazione, la strada, tutto si vede. Sì, lo so che sono sì, nonno, è anche giusta, però non sapete qui anche. Una strada molto pulita anche. Eh beh, logico che sia attrezzato bene, mica posso uscire con portate, vabbè, anche con portate deve essere per questo, esco bene. Perché da qua a Poveto Ovest, con portate le arrivo tranquillo, con la tela in gomma. In questo momento sono con la tela esterna, quindi. Ma c'è piovendo dalla tua parte? Qua sta piovendo parecchio. Sì, è iniziato a diluviare. No, qua sta piovendo. No, diluvio, ma normale, la diciamo, perché altro. Quindi coltanto non sta piovendo adesso. Se fa diluvio già me l'accorgo. Ci attacco subito il PL prima che ne scende l'aria. Ma qui è già entrato adesso di fare un paio di gocce belle serie, ma niente di che, dai. È da qua l'amministrazione, manco male che c'è un po' di pioggia in giro, dai. Meno male, si è andato bene, si è andato. Anzi, qua siamo fortunati che piove così delicatamente, non è come il continente, è fortunato. Siamo molto fortunati anche, dai. Tranquillo, se avesse piovuto come il continente avesse visto la dieta allagato fino a giù, non solo l'altro. Non la prima volta che è successo. Tutti i depositi allagati, non si vedeva più niente, quasi un metro e mezzo di acqua, perché lì è il punto più basso. Beh, sentiamo più tardi che ci sono un po' di vite dietro di me, dai. D'accordo, che alla prossima, a dopo, là, al limite, ciao. Abbassa le voci, Antonio. Sì, ciao, bello bene. Abbassa le voci. Sono con il microfono normale. Ecco. E beh. Come va, Antone? E allora, come va? Bello bene. Tutto a posto, sì. A passeggio, sì. A fare spese. No, a casa, sì. Sì, sicuro. 9.30 a casa, no. Come no? A casa, sono, non c'è. Sì, sì. Si sente lì, il sottofondo della macchina, si sente. Sembra che c'è un diesel. Cosa ci vuoi fare? Allora, visto che ce la giuro io. Fossi stato come dici tu, sei stato di fronte a casa mia lì con quell'antenna verde piazzata a 500 metri da casa mia, invece quello è trasloccato oramai, quindi no, sono seduto a tavolino sotto il bar di casa tua. Il mio due bar, lo sai, dipende da quale scegli. No, quello che c'è proprio sotto casa tua. Sì, di più caro. E vabbè, quello non vuol dire più caro, è un bar come tutti gli altri, poi se uno è più caro quello dipende da loro. Beh, quello sì, è la verità. Cazzo, poi guadagna, ma guadagna forte, mi dico lui. A parte che se vabbè, sia un pochettino caro, però guadagna un parecchio. Una cosa impressionante, c'è una fila la mattina che manco il principale tuo, cazzo, aveva guadagnato quello che guadagna lui. Vuol dire che fa servizio buono e niente, conviene anche. Diciamo, c'è una buona clientela, no? Sì, quello sì, la verità, c'è una buona clientela. Tu immaginati che alle 8 del mattino tutti, io mi alzo la mattina e scendo giù, c'è già il pienone, c'è, non c'è posto manco di parcheggiare. Quindi fanno come si dice la ruota del coso, dice, vediamo qual è che è fortunato, che si becca il parcheggio, tu figurati, poi che già anche davanti al cancello, figurati tu. Tu ti prendessi il caffè alle 8:30, c'è una fila allucinante, c'è veramente qua. È stato fortunato che evidentemente ci sa fare con i clienti, perché sennò a quest'ora sarebbe stato morto. È fortunato, veramente fortunato qua, come ballo. Ecco. Guarda, un'attività del genere, se non sei, se non fai buona faccia con il cliente, cosa così, non ci va nessuno. È evidente che ci sa fare parecchio anche con i clienti, ma vogliono così. Il barista vuole che si faccia i cavoli suoi, non si intrometta nei cavoli dei clienti, è sempre sorridente, un basso. Sì, quello già è vero, grazie a Dio lui si fa gli affari suoi, si è fatto così. Buongiorno, buonasera, ciao, ci vediamo, alla prossima, eccetera, eccetera. Sembra di essere, cioè, è talmente cordiale, cazzo, è una cosa allucinante. È troppo bravo, ci sa fare. E poca gente come lui, capito? A volte entri in un bar, cazzo, e trovi quello che è scorbutico, dato che ha le crisi epilettiche. A un certo punto, mamma mia, a un certo punto devo andare a cagaccio, guardi. L'unico è lui, va. L'unico è lui che non, lui è tranquillo, sorridente, lui la moglie è tranquilla, non c'è problema di niente. Già ti credo. Quello è un locale che gli porta soldi in tasca, già ti credo che devono essere così, quelle mela. E beh, Antonio, in quel canale là, nel telefonino, ci stai più andando? No, l'avevo messo, vabbè, ho cambiato telefono, la verità, perché mi si è incendiato l'LG. Un giorno c'avevo in tasca, rientro a casa, vado a caricarlo, non so, accendeva e spegneva, perché non si è spento del tutto. Allora caricato non caricava più. Allora ho dovuto aspettare un po' e ho dovuto prendere il vecchio, vabbè, quello era quello che era, si prendeva fino a fanculo, perché tutto quanto il vetro è fracassato, quindi quando vedi il vecchio non ci vedi niente. È come avere la lente di ingrandimento, non ci vedi niente. E quindi ho dovuto aspettare, prendermi l'altro telefono, 69 euro, adesso devo farmelo impostare ancora. E mettimi WhatsApp e tutte quelle cose varie, capito? Video Cibitalk, siccome l'account di mia nipote che è stato inserito, quindi ho buttato dire quello e metterci l'altro, quello mio, capito? Sì. Perché molte volte ci andavo, né a Giuseppe più ho sentito, a nessuno, ha giocato, ma si sono stancati. No, l'unico tipo che ho sentito è un mese fa nemmeno, Tamburello, cazzo, ho sentito, gli ho detto, cazzo, è rientrato a lavorare mai Tamburello. Ma quella c'era sempre, solo che aveva cambiato nome, aveva cambiato, ma c'era sempre. Ma adesso proprio si fa chiamare Tamburello, di cosa è quello. Su 6, Italia 6 entra sempre a parlare. Capito? Dopodiché due giorni allora, dopodiché mi ha scritto il telefonino a giornale, adesso da quel giorno bisogna che lo porto l'amico mio, poi faccio togliere l'account di mia nipote con la password e ci metto l'account mio è nuovo e la password mia. Così almeno ci metto Facebook, WhatsApp e tutto il resto che c'è da mettere. Così almeno mi diventa un pochettino col telefonino ogni tanto. Vabbè, qualche volta uso il computer, ma non sempre. Vabbè, ma dal computer non lo puoi installare quello lì, Cibitalk. Quello è il problema, capito? C'è il modo per installarlo, però non te lo fa installare, capito? Ma c'è il modo per poterlo installare. Devi fare un sacco di giri strani, capito? Infatti, boh, io ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Sì, vabbè, Cibitalk no, a meno che me lo usiamo. Io ce l'ho acceso, lo uso, quindi me la porto appresso adesso come facevo prima, riapriamo l'uovo con le danze, diceva quello, per usare il PMR, tanto il 27 non si manca un carro, e quindi a un certo punto utilizziamo questo e come una volta e va a far cuffia. Ehi, sì. Infatti non ti dà neanche l'app, ti dà di spittare dal telefonino, dal computer. E infatti non me la manco l'app, non so l'altro. Devo andare, mi sembra, in Google Play, se non ricordo male, perché questo non te lo dà. Ci vuole Google Play e poi fatto una specie di giro strano, capito? Infatti mi sto guardando io adesso, sto guardando e non lo dà. Nulla, diciamo, nulla. Non dà neanche l'app. Non te ne danno le cose, eccolo lì. Ma verrà fatto con gli acciaio dell'anno, come si stanno già se vogliono ingrandire, hai capito? Vogliono eliminare il baracchino e usare questa roba qui, capito? Quindi verrà fatto con la Midland, toglierà tutti quei lavandini di baracchini che vendevano 200 euro con l'ecco. Faranno direttamente il baracchino che inserisci la carta telefonica, vedrai, col microfono, 500 euro e andare a modulare così, capito? Senza aver bisogno di usare il telefonino. Ma non penso che faranno una cosa del genere. Sarà tutto diverso, guarda che il telefonino è tutta un'altra storia, è un computer già, non è a livello di un baracchino. E lo stanno già programmando, in pratica il telefonino proprio fatto apposta a Midland che gli inserisce la carta SIM e vai a modulare col microfono diretto senza stare con questo microfono strano che devi applicare a un baracchino normale, andare per dire su Bluetooth, capito? Voglio fare tutto uno, vogliono fare. A quanto ho saputo io, hai capito? Quindi verrà 500 euro, che voglia di spendersi 500 euro se li spenderà. Io non spendo 500 euro per una cagata del genere, la verità. A bui, magari farà due fasi, la 27 normale e poi direttamente la telefonino. Ma non so, perché che possono andare a fare una cosa del genere, però può darsi. E so che c'avevo comunque quell'intenzione di farlo, perlomeno, vedrai che già lo fanno, non ti preoccupare. Rimettici nella baracchina magari la scheda dentro, la SIM e farà tutto uno. Ma si sta notte? Da parlare di studi per dire appunto del 27 eccetera ti apparirà il coso telefonico e poi tranquillamente a parlare nei canali a cose, quella che già lo fanno, non ci vorrà molto. Adesso mi senti, Antone? Sì, ti ascolto. Antonello? Sì, ti ascolto, a voglia. Antone? Ehi, dimmi tutto. Come sentivi poco fa? Certo che ti sentivo. Ti sento, anche se sei in ombra, ti sento io, non ti preoccupare. Adesso mi senti? Sì, ti ascolto. Stavo abbassando perché... Stavo guardando, stavo abbassando un po' il coso. Capito? Perché stavo... disturbando il televisore. Ti ascolto lo stesso, non ti preoccupare per quello, lui ci mancherebbe. Va bene, dai. Pensavo che abbassando la potenza non mi sentivi più. Ti sento, non ti preoccupare. Sì, segnale 7, a voglia, poco fa era 9.30. Vabbè, poco fa era sotto il bar. Voglio che devi fronte, esci meglio qui che 27 va male, figurati. Sul 23 c'è qualcuno, ho visto che hanno messo la portantina. Sì, una volta ogni tanto c'è qualcuno sul 27, sul 23, non è sempre, no? Qualche nostalgico ci sarà, penso. Quindi, comunque io sono sempre acceso mio qua, Io sono 14 con la talvolta. Se qualcuno vuole entrare, ce l'ho sempre acceso, sia uno sia l'altro. Ma sono 14 della 27? Sì, sono 14 della 27, sì, non male. Ah, ci sei sempre lì? Io lo sapevo, pensavo che tu eri sul 23, entravi, oppure sul 10. No, sul 14, sempre lì. Lo sai che è stato sempre il mio canale quello, preferito. Quindi ho deciso di usarlo di nuovo come prima. Se qualcuno entra mi chiama, ci sono in ascolto, quindi rispondo pure. Magari nel caso non ci sono magari giù con qualche CB, se no a fare qualche lavoretto di qualche antenna, ma adesso periodo con questa pioggia è difficile, capito? Mica sa cosa volte per non ammazzarmi, non saranno. Infatti. Va bene, dai, Antonio, ti saluto che mi hanno chiamato, devo uscire un attimino, mi devo allontanare. E ci sentiamo, dai. E se ci sei dopo ti faccio chiamare. D'accordo, io sono con l'ascolto, non c'è problema, là. Chiama pure. Ciao. Ciao.